Wow. Benvenuti cari amici, siete su Railroad Radio Station e questa è Uptown Rockers, 12ª puntata, mercoledì 26 gennaio 2011. Come sempre partiamo con uno dei pezzi più strani, sto parlando di un pezzo Jay-Z, questo è John Ertzman con la canzone Mr. Magic tratta dall'album Music of My Heart. Stasera daremo spazio a delle etichette emergenti, anzi non proprio emergenti, sto parlando di Record Kicks, Jetsman Records e Vampy Soul, etichette europee che rispolverano classici del soul americano, ma ecco Mr. Magic eseguita da John Ertzman, tratta dalla compilation Let's Boogaloo volume 5 edita da Record Kicks. Mr. Magic, they call him, 'cause he can blow your mind, and he brings the tears when he disappears, just like magic, magic. Gambling with your heart was wrong, and you knew it all along. Tonight he must be strong, but you'll still be all alone, 'cause tomorrow he'll be gone. Call him, 'cause he's got lots of tricks. Beware from the start, then he'll break your heart, just like magic, magic. Magic takes the meal gear, he'll make you want to live. He'll tighten up your soul and mind, then he'll move on down the line. Thank you. Bene, questa era Mr. Magic di John Ertzman, ma passiamo direttamente alla seconda song. Sto parlando di Samuel Archer e i Soul Fantastic, con la song dal titolo Funky Puggin', un pezzo registrato alla fine degli anni 60, registrato a Panama negli studi della Taboga Records, l'etichetta che originariamente stampò questo 45 giri. Ancora una volta, grazie alla Record Kicks, rispolveriamo questa splendida canzone dai sapori infinitamente soul, rhythm and blues. Ecco a voi Samuel Archer e Soul Fantastic con Funky Puggin'. Se sentite la mia voce vuol dire che siete sintonizzati sulle frequenze di Railroad Radio Station. Io sono Drago DJ, questa è Uptown Rockers e avete appena ascoltato i Soul Fantastic con la magnifica Funky Puggin'. Passiamo adesso ad un pezzo che ha fatto saltare in pista tutti gli appassionati di Northern Soul fin dai tempi passati. Sto parlando di It's an Explosion, la song dei Royal Seven, un gruppo della Virginia che aveva eseguito questa composizione nella metà degli anni 70. Questa è It's an Explosion, una canzone simbolo del Northern Soul, ristampata per l'occasione sempre dal catalogo Record Kicks sulla compilation Let's Boogaloo volume 5. Ancora una volta un'etichetta europea che la fa da padrona. Ecco a voi It's an Explosion, Royal Seven. Northern Soul, un'etichetta che venne affibbiata a tutte quelle canzoni soul, rhythm and blues che nel panorama musicale americano degli anni 60 erano belle ma non erano tra i primi posti delle classifiche. Ma andiamo avanti con un'altra canzone, dalla Virginia ci spostiamo in California per ascoltare il pezzo di Billy Larkin dal titolo Funky Fire, un pezzo del 1961 che abbiamo estrapolato dal catalogo della Jetsman Records, l'etichetta a cui proprietario è Gerald Stick, che ha scovato questo pezzo di Deep Funk, un pezzo lento ma molto profondo. Music, funky, funky. I think the organ is a woman. Scream, screaming with funk, funkifier. Larkin, Funky Fire, e dobbiamo ringraziare Gerald, Jetsman Gerald, per aver riportato alla luce questa splendida tune, questa splendida canzone incisa su 45 giri nel 1961. Ma veniamo ai giorni nostri. Questo è un gruppo moderno di ora che si rifà un po' ai campionamenti e ai breakbeats del periodo degli anni 90. Questa è una canzone comunque del 2009 e loro sono i Six Toys. La canzone si intitola Jiggle. Thank you. siamo sempre qui, questo sound, i Six Toys con Jiggle. È una canzone estratta dalla compilation Aphrodisia Club volume 1, edita dall'etichetta spagnola di Madrid Vampy Soul. E questa etichetta ha voluto esaltare uno dei club più cool della Spagna, sto parlando appunto dell'Aphrodisia, da cui prende il nome questa compilation, da cui è stato estratto il pezzo dei Six Toys, l'Aphrodisia Club di Granada. Ma torniamo un attimo al passato con i Brother Soul, con il pezzo Cookies, una canzone che scoprirete essere una sigla di un noto programma televisivo delle reti italiane. Who stole the cookie from the cookie jar? I saw a hook head in a jar. Oh, wow, it's a hook head. Soul Cookies, chissà se avete riconosciuto di quale programma televisivo questa canzone era la sigla, ma restiamo sempre in casa Vampy Soul. Questo è un pezzo datato 2009, un giovane cantante emergente, lui si chiama JC Brooks, loro sono gli Uptown Sound. Il pezzo si intitola All Right ed è sempre estratto dalla compilation Aphrodisia Club, e compilation redatta dai DJ Falconetti e Lobez. Is there a vicious grooves, you need to vibrate all your heavenly curves. Now I know what you're thinking, say you shouldn't clown a lady cause she's fat. That ain't my game. Tripping the fun bag fantastic by my barbecue range, that's where it's at. Radio Station, Uptown Rockers, io sono Drago DJ. Se ci state ascoltando vuol dire che siete davanti al vostro PC e siete sulla pagina di Railroad Radio Station. Oggi sono particolarmente felice perché ho avuto la notizia che nel palinsesto di Railroad Radio Station ci sarà un nuovo programma. Un programma di cui il produttore è un mio carissimo amico, sto parlando di Tringaman, che saluto vivamente. Adesso passiamo alla prossima tune, lui è DJ Valik, il pezzo si intitola 33, lo troviamo sull'album edito da Record Kicks, ma questa volta è un remix perché il nostro amico Valik è stato rimaneggiato da Eddie Roberts e Simon Allen, ovvero i New Master Sound. We'll be right back. E anche per questa sera siamo arrivati in fondo, siamo arrivati all'ultimo pezzo di questa trasmissione. Vi do appuntamento domenica alle ore 22 per la replica, o se no seguiteci da lunedì nel podcast su Facebook o sul nostro sito. E da Railroad Radio Station è tutto, dalla Leaning City è tutto. Ultimo pezzo, una vecchia gloria del rap old school. Lui è Casanova Fly, Grandmaster Cats. Il pezzo si intitola Star Search, del 1992, edito inizialmente dalla Tough City di New York City ed estratto anche dall'album The Grandest Time in All. Questo pezzo è eseguito sul campione di Drop It in the Slow e questa è Grandmaster Cats. Buonasera a tutti, alla prossima puntata. Lights, girlfriend's on a mission. Got walk-on buys for all of the guys, 'cause she don't want no regular dude. That's her attitude. She dresses like a Hollywood diva. If she don't know ya, then she don't need ya. The fame game is the only game she'll play. To meet her, you need a resume. She gets in free, VIP in a party. Wanna know the hoe? You gotta be somebody. She goes to every concert as if it was church, 'cause honey's on a star search. Hey, sweetheart, can I talk to you for a second, baby? So I guess I'm gonna just stand here and listen to you talk to me. Yeah, while honey's on a star search. And record producers and managers are standing around here. As a Bible, and whoever's in town, she's down to wait for the arrival of whoever is popping. Party at the hotel, she's the first one to drop in. Betcha she'll be there till morning, with her dress all wrinkled when the sun is dawning. Swears to God she's no groupie though, another girl just like her. Got to be a tramp or a hoe, and she's a name dropper, saying who she knows, like she's so proper. Met Bobby at a show, spent the night with what's his name, and got a flick with Big Daddy Kane. Autograph from Eddie, dined with Arsenio, and ain't all that. In fact, she just a skinny hoe, but always at a party as if she was going to church, 'cause honey's on a star search. Hey, sweetheart, what's up? Let me talk to you about something real quick. Come here, come here. What you wanna talk to me about? A contract? A video? A TV Honey's show? On a star search. Something like that, if you get a little time to talk, you know what I'm saying? Well, listen, I don't think I have time for no garbage. If you got some money involved, then we can talk. If not, see ya. Take a number or grab a spot online. Join the list of those who thought they'd have to be fine or have money, and you soon see. You got to have more than that, G. A hit movie or a record on the charts. Homegirl's a heartbreaker, yeah, she breaks hearts by the dozens. And she ain't that fly, but got the nerve not to want an ordinary guy. Hard work and sincere, caring and genuine. She might get a star, but she'll go through 10 of them before she learns her lesson in life. You could be somebody's bitch or somebody's wife. Ain't nothing wrong for striving for the stars, but if that's where your nose is, stop to smell the roses, and then you can go to a real church instead of being on a star search. Hey, what's up, baby? You know, I'm Almighty KG from the Cold Crush. You know? Oh, what? Almighty KG from the Cold Crush? Yeah. I didn't know that. Instead of being on a star search. Why didn't you tell me? Oh, we can talk now, baby. We can talk now. Nah, baby. Step on. Well, ain't this up? That's all right. You ain't got to talk to me. I know Big Daddy King. I know Bobby Brown. I know BBB. I know James Brown since he got out of jail. And he gonna put me in a new video. And I know everybody, I'm gonna get put on some way, somehow, somewhere, 'cause I don't need you, and I don't need none of these old broke men around here that can't do nothing for me, and I don't wanna do nothing for them. I'm trying to get paid, not laid, and not played, okay? I wanna get money, okay? So don't play so, just say